Musa me stessa. Capelli biondi, occhi di Madonna. Prologo con bando. Venghino, signori! Venghino, venghino, signori e signori, venghino! A me gli occhi passanti! Venghino, venghino, signori e signori, venghino! A me gli occhi passanti! Capelli biondi, occhi di Madonna! Ma come porti i capelli, bella bionda? Vado in onda! A me gli occhi passanti! Io a me, musa a me stessa, over santa, over poetessa, adunque titubando prendo spazio. Che vergogna, spaparanzo! Allor mi fingo subspecie di stanzina, che carina! Sono l'artefice innocente e loculo, casina bello, stanzina bella, me oculo. Pupa pupilla, fanciulla dell'occhio, piccolo spazio, ferita della ripa, slabratura che si scoscia, sbrego nella costa, incunabolo. Dico di me, te che Madonna insieme, insomma. Dico di me, madama ricettacolo, in edicola Madonna, grande madre da trivio. In questa vesta lussuriosa di provetta madonnina in vetrina, o qual fanciulla sotto vuoto in vitro d'Amburgo, qui ovedensi riboboli mnemonici accolgo, nell'umido anfratto mi dons di miei villi cordiali, ed ergo ghirigolosi li metabolizzo in fabula, ba, di nulla nuova bestemmia sotto il sole. Ovvio, me la fate dire, ce l'avete sulla punta della lingua, via. Oppure aulenti e topulenti pistilli di Midons narcissi rifletto io, proprio io qui, qui son tutti riflessi di specchi di me, proprio me, me, ah, e tutti come nuovi ve li sforno in godibilissima sequela o in spirulanti ghirigori come segmenti di tenia. Benedetta questa qui murata casa, viva. Benedetta streghina, streghina. Esco da una bocchetta. Muratore che l'hai di rose. Murata, affronto la folla col parapiglia di parole. Faccio di tutto per sbaragliare il travestito che io fui, d'ori e gemme per lui. Tu baste columba seducta non avet cor. Che anch'io voglir dietro piumose memorie a pelle d'oca, ma fu intubata per secula in penna d'oca, e mi mancava la parola, allor questa pellicola, mio guscio di parola, fialfin, almeno qui, fatta mia scorza. Parodiando. Chi son, chi son? Chi canta chi qui qui? Qual son per me, chi son? Qual è il soggetto? Quali realtà i fui, se tal fui io per lui? Le note pure mi violentavano. Io son chi sono! E sto con me davanti, ma mi guardo le spalle. Lapidatemi. Tutta ora intendo l'impostura soprumana. Tale e tal'altra i fui, son per voi, per lui, e a me vegnon perversi, sia lui che voi perversi, per ricciucciarmi dalle mosche sulle sudate carte. Io ti guardavo e imprimevo la tua immagine dentro di me, come per ingoiarti. Qui è illo nulla, mi amavi un quanco. Misi per truffam et cum mendacio, per simulationem et non vere. Eccovi allora, signori e signori, ecco cosa vi canta la sfinita, musansante risentita. Sempre caro mi fu stare qui chiusa, e questo speco che è camera oscura, guardo d'amante che musa mi includa. Ma sedendo e mi mando la sua parte, anch'io mi miro per occhi sovrumani, godendo diva la profonda quiete, ov'io mi fingo un fallo fra le cosce. Poeta obtorto collo, e come il vento odo frusciare sulle labbra mie quello suono di lui che a questa straba voce vo comparando e mi sovvien gli eterni fiati in fuga da silvie morte lune, presente viva di rimorsi mago. Annega immenso il pensier mio nel suo, e profondar spaura in dolce specchio. Eppure ancora in me cercano il bello. Deuteragonia. Ma adesso ascoltami, lettor, ascoltami, fratello. L'ipocrita son io, fratello. E se da me figura, odio trasbordo, tabesco e svanisco, la posta in gioco è sempre più alta. Ero a disagio nella perfezione. Qui a te scriba, fariseo, trasverbero. Le note pure mi violentavano. Ti trasverbero? Col mito platonico della scrittura, ci pensi che figura? I due furono trovati massacrati. Per simulazione, et non vero. Sempre caro le fu starmi qui chiusa. Guardo d'amante, che musa mi includa. Sotto vuoto, sott'occhio, sotto sotto. Passavano un tempo. Erano donne giovani, bionde o brune. Cantavano tutte. Tutte tenute sott'occhio. Accadde ancora circa anni 40, anni 30, anni 20. E chi la fa l'aspetto? Ti tengo sott'occhio. Dovresti rifarmi la facciata. Ragazze, ragazze, che ciabattando van per queste calli. Ci sta di casa il vento. Così lontane dalla luce triste dei colli. Ragazze fiorentine o americane in braghe. Ragazze dalle belle ciglia. Ti tengo sott'occhio. Ragazze di Mario, di Piero, di Attilio e di Alfonso. Ragazze di Luigi, di Vasco, di Giovanni e di Giorgio. Me-ti-ca-men-ti. Te, chiusa. Oggi perdo la faccia. Non riuscivano a togliermi gli occhi di dosso. Me, ti, ca, men, te, chiusa. E questo speco, che camera oscura. Sì, io risplenderò degli ori di Giottino, poera. Vampata. Non c'ho neanche un lumino la sera, poerina. Al confino dietro i miei occhi. La pare la Madonna di Pompei, trafitta da sette spade, tempestate di pietre preziose, core meo. Mi guardo d'amante che musa mi includa. Pupa pupilla spaura repulsa, fanciulla dall'occhio. Io ti guardavo e imprimevo la tua immagine dentro di me, come per ingoiarti. Chi fa la spia non è figlio di Maria. Sì, lui sempre cede ad admirazio per perfetta copula e mulazio. Il travestito ch'io fui d'ori e gemme per lui. Sono un po' sparsa d'etere. Faceva così freddo laggiù al confino. Confinata dentro il tuo sguardo. Ero a disagio nella perfezione. Poi io lasciai definitivamente Firenze. Appaio radiosa, fenditura, in quest'aere senza tempo smosso. Basta un alito di vento, va in frantumi. Attenti non vi cada. Fragile. Scarpuccia di vetro, son io, proprio io. Son io, proprio io. La più bella del reame. Cella di specchi, specchio delle mie brame. Vago in onda, nel liquore del tuo sguardo, come fosse una bara di cristallo. Se mi cristallizzi, ergo sum la bella nella bara, Biancaneve in te cabara, o superotto con te da bara. E basta un bacio sulla guancia, un cara cara. Scemina, scemina. Urlua. La mia innocenza bucaneve. Ma sedendo, ecce me. E mi mando la sua parte. Il vostro scribacchino di linee piccoline. Non insultar, formica, le cicale divine. Parkinsoniano, gli casca la penna di mano. Anch'io mi miro per occhi sovrumani. Io stavo in quella palla color di zafferano. Ov'io mi fingo un fallo fra le cosce. Sì, talvolta il poeta cede al suo stesso incanto. Sì, talvolta mi capita di invidiarlo. Come potrebbe senza mani? Non avevo mai capito perché mi tenesse a distanza. Riguardarti lei, passante? A seconda dei casi, comunque di solito a 18 centimetri di distanza, più o meno. Come potrebbe senza gli occhi, senza mani lei? Presente e viva di rimorsi mago, in morta gora mi macchio e sgoccio. Altissima, levissima, purissima, spot! Eppure anch'io un tempo fui a mio agio nella perfezione. Qui giunse, nel 1211, per la prima volta a Firenze, San Francesco d'Assisi. Ma confronta infra, Mi appoggio a questo muro gonfio di pianto, questo muro lapide, ventre collapso. Ma come farebbe a baciare la mia bocca deformata di vetro? Appoggiami il tuo sguardo, accarezza l'anima murata, mi rigonfia crepa pancia, la tua presenza allontanata. E t'amo, e t'amo, e c'è me, gridai, beata. Ma invece mi misi sotto i piedi la luna. Inginocchiatevi. Persino il santo esausto vi s'appoggiò. Mi viene addosso. Sponsa con sponsor a passeggio lungo l'Arno. Fra le cosce ti dischiude paradisi di dolore. Catastrofetta. Ritorna la tua voce fresca e bella. E mi sovvien di silve morte lune, gli eterni fiati in fuga. Ritorna la tua voce fresca e bella. Quando ero primitiva, quando ero luna diva. Yolanda, Patrizia, Vivian, Mariella, Anne, Silvia, Amelia, o altra strega che Amalia, con sorelle materassi. Ampia vertigine, attassamento e profondara spaura in dolce specchio. Cella di specchi, specchio delle mie brame. Ora sto qui a profetar qui qui, qual goffa sibilla vecchina, piccina, piccina, picciò. Qui prima ci stava un ciabattino, piccino, piccino, piccino, picciò. Scarpetta di vetro! Qui appesa sul trespolo canarino in cash d'or, per sollazzar tristi silvestri a Silvia, Silvia. Fui io, proprio io, l'uccellaccio del malaugurio per lui e per lei. Io, proprio io, fui sorpresa in cash d'or. Oggi faccio fiasco. Stenterella, brindellona! Così ella dove sospirare, profetando di sé l'apocalisse. E quando il mio corpo si ridurrà ad un infinitesimo fuscello e tutti mi rinnegheranno, ti verrò del tutto invisibile, ma che ancora esisto lo si comprenderà dalla voce. Usque ad eo mutata ferar nullique videnda voce, tam in oscar vocem mi fata relinquent. Ona, ona, ona, ma che bella rificolona la tua, lecco fiocchi, la mia copidocchi. Ona, ona, ona, ma che bella rificolona, e l'è più bella la mia di quella della zia. Ona, ona, ona, ma che bella rificolona, la tua è copidocchi, la mia è lecco fiocchi. Lapidatela, lapidatela, lapidatemi, come lapide. Di lei, lapidaria, come l'aria del carretto, young forever. Forever young, I want to be forever young. Forever young, I want to be forever young. Quando ero primitiva, quando ero luna diva. Lapidatela con gioielli e monetine, signori e signori. Lapidatela con gioielli e monetine, tin tin tin tin tin, forza forza forza. Lapidatela con gioielli e monetine, tin tin tin tin, pipiripiripipipipi, tin tin. Nel bosco c'era la casetta di una vecchina seduta sulla stufa. Io mi sono un che piomba qual bomba dalla luna. Quando ero primitiva, quando ero accovacciata. Coi fiocchi e coi pidocchi, coi fiocchi e coi pidocchi. Certo, è un isbarotante. Sta in bilico. Tacco punta, tacco punta. Streghina, streghina. Scarpetta di vetro. Vide un'isba dalle zampe di gallina. Entrò. Nell'isba c'era la Baba Yaga gamba d'osso. Salute, nonnina. Su tre zampe di gallina. Trespolo di sibilla. Antro infanticida. Salute, nonnina. Ecco, saltella, zompetta, le tirano il collo dell'utero, qual borsa a sacchetto. Soffoca, soffoca. Strina, strina. Ero piena di dolci. Non avvicinatevi troppo, vi mangia. Biancaneve in buca pancia, qual troncia delle belle lettere qui si dà un ricevimento. Ricevo posta tutti i giorni a Beatrice, a Nerina, a Silvia e a Laura. Centro di prima accoglienza, fanciulle recluse o bambine deluse, tipo Alice, insomma. E qui si soffoca, Le venne addosso l'esercito delle carte viventi. A lei, proprio lei, lei. E qui allora, deggio, deggio, anch'io, anch'io. Per forza, in me accolgo tutta scrittura. Tutta scrittura accolgo. Ero una voce poco fa. Una voce poco fa. Strozzata da clausura. Strozzata da clausura. A me gli occhi, arraffa, arraffa. Madonna, strigge artiglio di gatto. Me l'oculo gli oculi passanti. Ma se mi toccano dove il mio debole, sarò una vipera, sarò. Strozzata gamba d'osso, Baba Yaga, mamma draga, dalla grata piglio aria. Qui, qui, soffocata dalle sudate carte. O meglio, invischiata in commedia di tresche come Rosvita la Santa, o la grassa erborista Hildegarda, abbadessa di Bingen, strozzata fra intrecci di tresche in commedia, ella godendo dovette accovacciarsi una rificolona tutta di carta, memisma Sor Juana, accovacciata Rosvita. O come quell'altra signora, Giovanna Piacenza, che ci aveva la stessa credenza. Suorina New Age. Fui io, proprio io. Io fui, proprio io, nella stanza di Giovanna, accanto al caminetto, accovacciata. Oh, Diana Abbadessa. Forse in insonnio, forse per un colpo di sonno. Forse fu solo una cascaggine. E attassamento. Burp. Ma è un respiro a spirale, una parte. Spiffero di boccaglio, agonizzo, non c'è spiraglio. Non c'è scampo. Eppure, ancora in me, cercano il bello. Finito di scrivere, il 25 di marzo. Avendovi annunciato di che morte moro, ab incarnazione di lei paura quaresima, è di precetto osservare il digiuno dello sguardo. Allora adesso presto, buio, buio, presto! Signori e signori, sipario!